Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. La strada era affollata e ai lati aveva graticci di culmi di grano e stuoie mimetiche e stuoie di sopra che pareva l'ingresso di un circo o di un villaggio indigeno. Procedemmo adagio in quella galleria di stuoie e uscimmo in un nudo spiazzo sgombro dove era stata la stazione ferroviaria. Qui il livello della strada era inferiore a quello del fiume e lungo il ciglio della strada incassata erano state scavate buche e dentro c'era la fanteria. Il sole stava tramontando e guardando su lungo la riva mentre si andava avanti vidi sulle colline dell'altra riva i palloni osservatori austriaci scuri contro il tramonto. Sistemammo le macchine dietro una fornace di mattoni. I forni e qualche grossa buca erano stati attrezzati come posti di medicazione. C'erano 3 medici che conoscevo. Parlai col maggiore e appresi che quando si fosse incominciato e le nostre macchine fossero state cariche, le avremmo riportate lungo la strada mimetizzata e su per la strada principale lungo il crinale, dove ci sarebbe stato un posto di raccolta e altre macchine per scaricarle. Sperava che la strada non sarebbe diventata un guaio. Era una tournée in senso unico. La strada era mimetizzata perché era esposta agli austriaci di là del fiume. Qui, alla fornace, eravamo al riparo dal tiro dei fucili e delle mitragliatrici della riva del fiume. C'era un ponte crollato di là del fiume. Stavamo per buttarci sopra un altro ponte quando incominciò il bombardamento e parte della truppa dovette guardare un po' più in su alla curva del fiume. Il maggiore era un ometto coi baffi all'insù. Aveva fatto la guerra in Libia e aveva 2 filetti di ferite. Disse che se l'azione andava bene avrebbe cercato di farmi dare una decorazione. Dissi che speravo che sarebbe andata bene, ma che era troppo gentile. Gli chiesi se c'era un ricovero grande dove potessero stare gli chauffeur e mi diede un soldato a mostrarmelo. Andai con lui e trovai che il ricovero era molto buono. Gli chauffeur erano soddisfatti e ve li lasciai. Il maggiore mi invitò a bere con lui e altri 2 ufficiali. Bevemmo un rum e fu tutto molto cordiale. Fuori stava diventando buio. Chiesi a che ora sarebbe incominciato l'attacco e dissero appena era buio. Ritornai dagli chauffeur. Erano seduti nel ricovero a chiacchierare e quando entrai tacquero. Diedi un pacchetto di sigarette a ciascuno, macedonia, sigarette malfatte che perdevano tabacco e bisognava attorcigliare le estremità prima di fumarle. Manera accese l'accendino e lo passò in giro. L'accendino aveva la forma di un radiatore Fiat. Gli dissi quel che avevo sentito. «Come mai non abbiamo visto il posto di raccolta quando siamo scesi?» chiese Passini. «Era proprio di là di dove abbiamo girato». «Quella strada sarà un brutto pasticcio», disse Manera. «Ci porteranno via il... a cannonate». «È probabile. E per mangiare, tenente? Non avremo la possibilità di mangiare quando l'azione sarà cominciata». «Ora vado a vedere», dissi. «Dobbiamo stare qui o possiamo dare un'occhiata in giro?» «Meglio star qui». Ritornai al ricovero del maggiore e disse che la cucina da campo stava arrivando e gli chauffeur potevano venire a prendere il loro rancio. Avrebbe prestato loro le gavette se non le avevano. Dissi che credevo le avessero. Ritornai indietro e dissi agli chauffeur che sarei venuto a cercarli appena arrivava il cibo. Manera disse che sperava arrivasse prima dell'inizio del bombardamento. Rimasero zitti finché me ne andai. Erano tutti meccanici e odiavano la guerra. Uscii a guardare le macchine, a vedere che cosa succedeva, e poi tornai indietro e mi sedetti nel ricovero con i 4 chauffeur. Stavamo seduti per terra con le spalle appoggiate alla parete e fumavamo. Fuori era quasi buio. Il terreno del ricovero era caldo e asciutto, e abbandonai le spalle contro la parete sedendo sul fondo della spina dorsale. E mi rilassai. «Chi attaccherà?» chiese Gabuzzi. «Bersaglieri. Tutti bersaglieri?» «Credo di sì. Non ci sono abbastanza truppe qui per un vero attacco. Forse è per distrarre l'attenzione da dove avverrà l'attacco vero. Gli uomini lo sanno che attaccano?» «Non credo». «Naturalmente no», disse Manera. «Non attaccherebbero se lo sapessero». «Sì, che attaccherebbero», disse Passini. «I bersaglieri sono scemi». «Sono coraggiosi e disciplinati», dissi. Hanno una discreta circonferenza toracica e sono pieni di salute, ma sono scemi lo stesso. I granatieri sono grandi, disse Manera. Era uno scherzo, risero tutti. C'era tenente quando non hanno voluto attaccare e li hanno fucilati uno ogni 10? No. È vero, li hanno messi in fila e ne hanno preso uno ogni 10. Gli hanno sparato i carabinieri. Carabinieri, disse Passini e sputò per terra. Ma quei granatieri, tutti più di 1,80, non hanno voluto attaccare. Se nessuno volesse attaccare, la guerra finirebbe, disse Manera. Non hanno pensato a questo, i granatieri. Avevano paura. Gli ufficiali erano tutti di così buona famiglia. Qualche ufficiale è andato da solo. Un sergente ha sparato a 2 ufficiali che non volevano uscire. Una parte di truppa è uscita. Quelli che erano usciti non li hanno messi in fila quando hanno preso gli uomini. Uno dei fucilati dai carabinieri è del mio paese, disse Passini. Era un ragazzone alto ed elegante per essere nei granatieri. Sempre a Roma, sempre con donne, sempre con carabinieri. Rise. Ora hanno una guardia con la baionetta fuori di casa sua e nessuno può andare a trovare la madre e il padre e le sorelle. E il padre ha perduto i diritti civili e non può neanche votare. Non sono più protetti dalla legge. Chiunque può portare via la loro roba. Se non fosse per quel che fanno le famiglie, nessuno andrebbe all'attacco. Sì, gli alpini ci andrebbero. I VE ci andrebbero. Qualche bersagliere. Anche i bersaglieri sono scappati. Ora cercano di dimenticarlo. Non dovrebbe lasciarci parlare a questo modo, tenente. Evviva l'esercito, disse Passini sarcastico. Lo so come parlate, dissi. Ma finché guidate le macchine e vi comportate bene e non vi fate sentire dagli altri ufficiali, concluse Manera. Io credo che si debba finire la guerra, dissi. Non finirebbe se una parte smettesse di combattere. Sarebbe soltanto peggio se si smettesse di combattere. Non potrebbe essere peggio, disse Passini con rispetto. Non c'è nulla di peggio della guerra. La sconfitta è peggio. Non credo, disse Passini sempre con rispetto. Che cos'è la sconfitta? Si ritorna a casa. Ti vengono dietro, ti prendono la casa, ti prendono le sorelle. No, non credo, disse Passini. Non possono farlo a tutti. Lascia che ciascuno difenda la propria casa, lascia che ciascuno si chiuda le sorelle in casa. Ti impiccano. Vengono a farti fare di nuovo il soldato, non nelle autoambulanze. Nella fanteria. Non possono impiccare tutti. Una nazione straniera non può farti fare il soldato, disse Manera. Alla prima battaglia si scappa tutti. Come cecoslovacchi? Credo che non sappiate che cosa vuol dire essere vinti. E così credete che non sia grave. Tenente, disse Passini, lei ci lascia parlare. Senta, niente è brutto come la guerra. Noi nell'autoambulanza non si riesce neanche a capire come sia brutto. Quando si capisce come brutto non si può fare niente per fermarla perché si diventa matti. C'è qualcuno che non lo capisce mai. C'è qualcuno che ha paura dei suoi ufficiali. Sono loro che fanno la guerra. So che è brutto, ma dobbiamo finirla. Non finisce. Non c'è fine per una guerra. Sì che c'è. Passini scosse la testa. La guerra non si vince con la vittoria. E se anche prendessimo il San Gabriele, se prendessimo il Carso e Monfalcone e Trieste, a che punto si sarebbe? Ha visto tutte quelle montagne quest'oggi? Crede che possiamo prenderle tutte, anche quelle? Solo se gli austriaci smettono di combattere. Una delle due parti deve smettere di combattere. E perché non smettono di combattere? Se scendono in Italia si stancano e se ne vanno. Hanno già il loro paese, ma no. Invece c'è la guerra. Sei un oratore. Noi pensiamo, leggiamo, non siamo contadini, siamo meccanici, ma perfino i contadini sanno che non si deve credere in una guerra. Tutti odiano questa guerra. La classe che controlla il paese è stupida e non capisce niente, non capirà mai niente. È per questo che c'è questa guerra. E poi ci fanno quattrini. Molti non li fanno neanche, disse Passini. Sono troppo stupidi, la fanno per niente, per stupidità. Dobbiamo smetterla, disse Manera. Parliamo troppo perfino per il tenente. A lui piace, disse Passini. Lo convertiremo. Ma ora dobbiamo smetterla, disse Manera. Non si mangia ancora, tenente? Chiese Gavuzzi. Vado a vedere, dissi. Gordini si alzò e uscì con me. «Posso fare qualcosa, tenente? Posso aiutarla?» Era il più silenzioso dei 4. «Vieni con me se vuoi», dissi. «Andiamo a vedere». Thank you. Fuori era buio e la lunga luce dei riflettori si muoveva sulle montagne. C'erano grossi riflettori su quel fronte, montati su camion che a volte la notte si incontravano sulla strada vicino alle linee. Il camion fermo un po' fuori di strada con un ufficiale che dirigeva la luce e gli uomini spaventati. Attraversammo la fornace e ci fermammo al posto di medicazione. C'era un piccolo riparo di frasche verdi fuori sull'ingresso e nel buio il vento della notte faceva frusciare le foglie seccate dal sole. Dentro c'era la luce. Il maggiore era al telefono seduto su una cassa. Uno degli ufficiali medici disse che l'attacco era stato rimandato di un'ora. Mi offrì un bicchiere di cognac. Guardai le tavole di assi, gli strumenti scintillanti alla luce, i catini e le bottiglie tappate. Gordini rimase in piedi dietro di me. Il maggiore si alzò dal telefono. «Incomincia adesso», disse. «È stato di nuovo anticipato». Guardai fuori. Era buio e i riflettori austriaci si muovevano sulle montagne dietro di noi. Il silenzio durò ancora un momento. Poi tutti i cannoni dietro di noi aprirono il fuoco. «Savoia», disse il maggiore. «E la minestra, maggiore?» dissi. Non mi udì. Ripetei la domanda. «Non è arrivata». Arrivò una grossa granata ed esplose fuori dalla fornace. Un'altra esplosione e nel rumore si poteva udire il rumore più piccolo della pioggia di mattoni e di terriccio. «Che cosa c'è da mangiare?» «C'è un po' di pasta asciutta», disse il maggiore. «Prenderò quello che può darmi». Il maggiore parlò a un piantone che scomparì nel fondo e ritornò con un catino di metallo pieno di maccheroni freddi. Lo passai a Gordini. «Non c'è un po' di formaggio?» Il maggiore parlò di malanimo al piantone che tornò a tuffarsi nel buco e uscì con un quarto di formaggio bianco. «Grazie tante», dissi. «È meglio che non usciate». Fuori qualcosa era stato posato vicino all'ingresso. Uno dei due uomini che l'avevano portato si affacciò a guardare dentro. «Portatelo dentro», disse il maggiore. «Cosa c'è? Volete che veniamo fuori noi a prenderlo?» I due portaferiti presero l'uomo per le gambe e sotto le ascelle lo portarono dentro. «Apritegli la giubba», disse il maggiore. Prese una pinza che aveva un po' di garza in fondo. I due capitani si tolsero la giubba. «Andate fuori», disse il maggiore ai due portaferiti. «Vieni», disse a Gordini. «È meglio che aspettiate che sia finito il bombardamento», disse il maggiore senza voltarsi. «Vogliono mangiare», dissi. «Come volete». Fuori attraversammo di corsa la fornace. Una granata esplose vicino alla riva del fiume. Poi ce ne fu una che non udimmo arrivare fino all'improvviso spostamento d'aria. Ci buttammo a terra e col lampo e il rumore dell'esplosione e l'odore udimmo il sibilare delle schegge e lo scroscio dei mattoni che cadevano. Gordini si alzò e corse verso il ricovero. Lo seguì tenendo il formaggio che aveva la superficie liscia coperta di polvere di mattone. Dentro al ricovero c'erano i tre chauffeur seduti contro il muro e fumavano. «Ecco qua, patrioti», dissi. «Come vanno le macchine?» chiese Manera. «Bene». «Si è spaventato, tenente?» «Maledettamente», dissi. Presi il temperino, lo aprii, pulii la lama e raschiai la superficie sporca del formaggio. Gavuzzi mi offrì il catino di maccheroni. «Incominci lei, tenente?» «No», dissi. «Mettilo in terra, mangeremo tutti». «Non ci sono forchette». «Al diavolo», dissi in inglese. Tagliai il formaggio a pezzi e li misi sui maccheroni. «Sedetevi intorno», dissi. Sedettero e aspettarono. Cacciai il pollice e le dita nei maccheroni e tirai su. Si districò un grumo. «Li tenga alti, tenente». Alzai il braccio e i fili si districarono. Li calai in bocca. Aspirai e schioccai le estremità e masticai. Poi presi un pezzo di formaggio, masticai e poi un sorso di vino. Sapeva di metallo arrugginito. Restituì la borraccia a Passini. «Una porcheria», disse. «È stato dentro troppo, lo avevo in macchina». Mangiavano tutti, tenendo il mento vicino al catino, tirando su la testa, aspirando le estremità. Ne presi un altro boccone e un po' di formaggio e una sorsata di vino. Fuori cadde qualcosa che fece tremare la terra. 420 o Minenwerfer», disse Gavuzzi. «Non ci sono 420 in montagna», dissi. «Hanno degli Skoda pesanti. Ho visto le buche». 305. Continuammo a mangiare. Ci fu un colpo di tosse, un rumore come una locomotiva che parte, e poi un'esplosione che scosse di nuovo la terra. «Non è un ricovero profondo», disse Passini. «Era una bombarda, sì, signore». Mangiai il resto del mio pezzo di formaggio e bevvi un sorso di vino. Attraverso gli altri rumori udì un colpo di tosse, poi venne il sciu, sciu, sciu, sciu. Poi ci fu un lampo come quando lo sportello di un alto forno si spalanca e un muggito che incominciò bianco e divenne rosso e via nella corrente dello spostamento d'aria. Cercai di respirare, ma il respiro non volle venire e mi sentii scagliato fuori di me e fuori e sempre nel vento. Andai fuori veloce, tutto me stesso, e sapevo che ero morto e che era stato un errore pensare che ero morto. Poi galleggiai e invece di procedere mi sentii scivolare indietro. Respirai ed ero indietro. Il terreno era sconvolto e davanti alla mia testa c'era un travi di legno schiantato. Nello stordimento udii qualcuno gridare. Pensai che qualcuno strillasse. Cercai di muovermi, ma non potei. Udii le mitragliatrici e i fucili che sparavano di là del fiume e tutto lungo il fiume. Era un gran fango e vidi i traccianti salire ed esplodere e galleggiare bianchi. I razzi che salivano e udii le bombe tutto in un attimo e poi udii qualcuno vicino a me che diceva: «Mamma mia, mamma mia!» Feci forza e mi torsi e finalmente mi liberai le gambe e mi voltai e lo toccai. Era Passini e quando lo toccai urlò. Aveva le gambe rivolte verso di me e vidi negli squarci di luce che erano tutte e due troncate sopra il ginocchio. Una gamba era scomparsa e l'altra era trattenuta dai tendini e parte dei calzoni e il moncone si contorceva e sussultava come se non fosse stato attaccato. Si mordeva il braccio e gemeva: «Oh, mamma mia, mamma mia!» Poi: «Dio ti salvi Maria, Maria, Dio ti salvi Maria, oh Gesù, fammi morire, Cristo, fammi morire, mamma mia! Oh, purissima Maria, fammi morire, basta, basta, basta, Gesù, dolce Maria, basta!» Oh, poi soffocando: «Mamma mia, mamma mia!» Poi rimase zitto, mordendosi il braccio col moncone della gamba che ancora si contorceva. «Porta feriti!» gridai, tenendo le mani a portavoce. «Porta feriti!» Cercai di avvicinarmi a Passini per cercare di mettergli un laccio emostatico alle gambe, ma non riuscivo a muovermi. Cercai di nuovo, le gambe si mossero un poco, riuscii a spingermi indietro con le braccia e i gomiti. Passini ora stava zitto. Sedetti accanto a lui, mi aprì la giubba e cercai di strappare il fondo della camicia. Non si volle strappare e diedi un morso all'orlo della tela per incominciare lo strappo. Poi pensai alle sue fasce. Io avevo i calzerotti di lana, ma Passini aveva le fasce. Tutti gli chauffeur avevano fasce, ma Passini aveva solo una gamba. Sciolsi la fascia e mentre lo facevo mi accorsi che non c'era bisogno di cercare di fare il laccio perché era già morto. Mi accertai che era morto. C'erano altri tre da individuare. Mi sedetti diritto e mentre così facevo, qualcosa dentro la testa mi si mosse come i pesi degli occhi di una bambola e mi colpì dietro le pupille. Mi sentivo le gambe calde e bagnate e le scarpe erano bagnate e calde dentro. Sapevo che ero ferito e mi sporsi in avanti e appoggiai la mano sul ginocchio. Il ginocchio non c'era. La mano entrò e il ginocchio era giù, sulla tibia. Mi asciugai la mano sulla camicia e un'altra luce fluttuante scese molto lentamente e mi guardai la gamba ed ebbi una gran paura. «Oddio», dissi, «fammi uscire di qui». Sapevo però che ce n'erano altri tre. Gli chauffeur erano quattro. Passini era morto. Ne rimanevano tre. Qualcuno mi prese sotto le braccia e qualcun altro mi alzò le gambe. «Ce ne sono altri tre», dissi. «Uno è morto. Sono Manera. Siamo andati a cercare un portaferiti, ma non c'è. Come sta, tenente? Dove sono Gordini e Gavuzzi? Gordini è al posto di raccolta a farsi bendare. Gavuzzi le tiene le gambe. Si tenga al mio collo, tenente. È ferito grave?» «Alla gamba. Come sta Gordini?» «Sta bene. Era una bombarda.» «Passini è morto?» «Sì, morto. Una granata cadde vicino e si gettarono tutti e due a terra e mi lasciarono cadere.» «Scusi, tenente», disse Manera. «Si tenga al mio collo. Se mi lasciate di nuovo cadere, era perché avevamo paura. Voi non siete feriti?» «Tutti e due, leggermente.» «Gordini può guidare?» «Non credo. Mi lasciarono cadere un'altra volta prima di giungere al posto di medicazione. figli di puttana, dissi. Scusi, tenente, disse Manera, non la lasceremo cascare più. Fuori del posto di raccolta molti di noi erano stesi a terra nel buio. Trasportavano feriti dentro e li riportavano fuori. Vedevo la luce uscire dal posto di medicazione quando la tenda si alzava e portavano qualcuno dentro o fuori. I morti venivano messi da una parte. I medici lavoravano con le maniche rimboccate fino alle spalle ed erano rossi come macellai. Non c'erano abbastanza barelle, qualche ferito era rumoroso, ma quasi tutti stavano zitti. Il vento smuoveva le foglie nel pergolato sulla porta del posto di medicazione e la notte stava facendosi fresca. I portaferiti continuavano a entrare, posare le barelle, scaricarle e andarsene. Appena arrivai al posto di medicazione, Manera fece venire fuori un sergente di sanità e lui mi mise delle bende sulle gambe. Disse che nella ferita c'era tanto terriccio da evitare una grande emorragia. Mi avrebbero preso appena possibile. Ritornò dentro. Gordini non poteva guidare, disse Manera. Aveva la spalla sfracellata e la testa ferita. Non si era sentito male, ma ora la spalla gli si era irrigidita. Era seduto vicino a un muretto di mattoni. Manera e Gavuzzi partirono ciascuno con un carico di feriti, potevano guidare. Gli inglesi erano venuti con 3 ambulanze e avevano 2 uomini su ogni ambulanza. Uno degli chauffeur venne da me accompagnato da Gordini, che era molto pallido ed esausto. L'inglese si chinò su di me. «È ferito gravemente?» chiese. Era alto e portava occhiali cerchiati d'acciaio. «Alle gambe. Niente di serio, spero. Vuole una sigaretta?» «Grazie. Mi dicono che le mancano 2 chauffeur. Sì. Uno morto è quello che vi ha portato. Che sfortuna. Vuole che prendiamo noi le macchine?» «È quello che volevo chiedervi. Ne avremo cura e le restituiremo alla villa. 206, vero?» «Sì. È un luogo incantevole. L'ho vista da quelle parti. Mi dicono che lei è americano?» «Sì.» «Io sono inglese.» «No.» «Sì, inglese.» «Credeva che fossi italiano?» «C'era qualche italiano con uno dei nostri reparti.» «Sarebbe bello se prendeste voi le macchine», dissi. «Faremo molta attenzione», si rizzò. Questo suo ragazzo era molto ansioso che venissi a vederla. Batté Gordini sulla spalla. Gordini sorrise. L'inglese irruppe in un italiano volubile e perfetto. «Ora tutto è sistemato. Ho visto il tuo tenente. Prenderemo le 2 macchine. Ora non preoccuparti», continuò. «Devo fare qualcosa per toglierla di qui. Ora vado a vedere nel Valhalla, medico. Cerco di portarla giù con noi.» Si avviò verso il posto di medicazione camminando con cura tra i feriti. Vidi aprire la tenda. Uscì la luce e lui entrò. «Avrà cura di lei, tenente», disse Gordini. «Come stai, Franco?» «Bene», sedette accanto a me. In un momento la tenda davanti al posto di medicazione si aprì e 2 portaferiti uscirono seguiti dallo spilungone inglese. Li condusse da me. «Ecco il tenente americano», disse in italiano. «Preferisco aspettare», dissi. «Ce n'è di più gravi di me, io sto bene.» «Su, su», disse, «non faccia l'eroe.» Poi in italiano: «State attenti quando lo prendete per le gambe. Le gambe gli fanno molto male. È il figlio adottivo del presidente Lincoln.» Mi raccolsero e mi portarono nella stanza di medicazione. Dentro stavano operando su tutte le tavole. Il piccolo maggiore ci guardò furioso. Mi riconobbe e agitò le pinze. «Ça va bien?» «Ça va.» «L'ho portato dentro», disse l'inglese in italiano. «È figlio unico dell'ambasciatore americano. Può stare qui finché qualcuno è pronto per prenderlo, poi lo porto giù col primo carico.» Si chinò su di me. «Vado a vedere che l'aiutante le faccia la bassa di passaggio e così tutto andrà molto più in fretta.» Si curvò per passare dalla porta e uscì. Ora il maggiore stava liberando la pinza e la tuffava in un catino. Gli seguì le mani con lo sguardo. Ora stava bendando. Poi i portaferiti portarono via l'uomo dal tavolo. «Prendo io il tenente americano», disse uno dei capitani. Mi sollevarono sulla tavola. Era dura e sdrucciolevole. C'erano molti odori forti, odori chimici e l'odore dolce del sangue. Mi tolsero i calzoni e il capitano medico, mentre lavorava, incominciò a dettare all'aiutante di sanità: «Ferite multiple e superficiali alla coscia sinistra e destra e al ginocchio sinistro e destro e al piede destro. Ferite profonde al ginocchio e al piede destro. Lacerazione del cuoio capelluto. Tastò. Fa male?» «Cristo, sì!» «Con possibile frattura cranica. Contratta in servizio. Questo è ciò che le impedirà di venire deferito alla corte marziale per autolesione, disse. Vuole un sorso di cognac? Come ha fatto a cacciarsi in questa storia? Che cosa stava cercando di fare? Di suicidarsi? Antitetano, per favore, e fate una croce su tutte e due le gambe. Grazie. Ora pulisco un po', lavo e metto una benda. Il suo sangue coagula molto bene. L'aiutante, alzando lo sguardo dalla bassa di passaggio, che cosa ha provocato le ferite? Il capitano medico, che cosa l'ha colpita? Io, con gli occhi chiusi, una bombarda. Il capitano, facendo qualcosa che faceva un male acuto e lacerava il tessuto. Certo. Io, cercando di stare fermo e sentendomi ballare lo stomaco quando la carne veniva tagliata, credo. Il capitano medico, interessato in qualcosa che stava trovando, schegge di bombarda nemica. Ora, se vuole, farò la sonda per prenderne qualcuna, ma non è necessario. Spennellerò ogni cosa. Fa male? Bene. Non è niente in confronto a come sarà poi. Il dolore non è ancora incominciato. Portategli un bicchiere di cognac. Il colpo smorza il dolore. Ma va tutto bene, non c'è da preoccuparsi se non fa infezione. E ora capita di rado. Come va la testa? Dio buono, dissi. Meglio non bere troppo cognac, allora. Se si è fatta una frattura bisogna evitare l'infiammazione. Che cosa sente? Il sudore mi coprì tutto. Dio buono, disse. Credo proprio che lei abbia la frattura. Ora la fascio e cerchi di non muovere la testa. Mi bendò con le mani che si muovevano veloci e la fasciatura riusciva esperta e sicura. Bene, in bocca al lupo e vive la France! È americano, disse un altro capitano. Mi pareva che lei avesse detto che era francese. Parla francese, disse il capitano. Lo conoscevo. Ho sempre creduto che fosse francese. Beve un bicchiere di cognac. Portate dentro qualcosa di serio. Cercate dell'altro antitetano. Il capitano mi salutò con la mano. Mi alzarono e la tenda mi sbatté sulla faccia mentre uscivamo. Fuori, l'aiutante di sanità si inginocchiò accanto a dove giacevo. Cognome? Chiese sottovoce. Nome, grado, luogo di nascita, classe, specialità e così via. Mi dispiace per la sua testa, tenente. Spero che vada meglio. Ora la mando con l'ambulanza inglese. Sto bene, dissi. Grazie tante. Il dolore di cui aveva parlato il maggiore era incominciato e tutto ciò che stava succedendo era privo di interesse e di relazione. Dopo un po' arrivò l'ambulanza inglese e mi misero su una barella e alzarono la barella all'altezza dell'autoambulanza e la cacciarono dentro. C'era un'altra barella da una parte con un uomo di cui potevo vedere il naso color della cera sporgere dalle bende. Vi furono barelle alzate e infilate nei loro posti. L'altro chauffeur inglese venne a guardar dentro. Andrò molto adagio, disse. Spero che starà comodo. Sentii mettere in moto il motore, sentii lui salire sul sedile davanti, sentii togliere i freni e innestare la marcia, poi partimmo. Già qui immobile e lasciai marciare il dolore. Mentre si inerpicava sulla strada, l'ambulanza era lenta nel traffico. A volte si fermava, a volte faceva marcia indietro in una curva, poi finalmente salì veloce. Sentii gocciolare qualcosa. Dapprima gocciolò lentamente e regolarmente, poi colò come un rigagnolo. Chiamai lo chauffeur. Fermò la macchina e guardò dentro attraverso il buco dietro il sedile. «Cosa c'è?» «Quello sulla barella, sopra di me, ha un'emorragia. Siamo quasi arrivati, non posso togliere la barella da solo.» Mise in moto la macchina. Il rigagnolo continuò. Nel buio non potevo distinguere da che punto del telo sopra di me venisse. Cercai di spostarmi da un lato perché non mi cascasse addosso. Dove era caduto sentivo tutto caldo e attaccaticcio sotto la camicia. Avevo freddo e la gamba mi faceva male fino a darmi la nausea. Dopo un po' il rigagnolo della barella di sopra diminuì e ricominciò a gocciolare e udii il telo di sopra muoversi come se l'uomo sulla barella cercasse una posizione più comoda. «Come sta?» chiese l'inglese senza voltarsi. «Siamo arrivati!» «Deve essere morto», dissi. Le gocce cadevano molto lente, come cadono da un ghiacciolo quando il sole è tramontato. Faceva freddo nella macchina di notte mentre la strada saliva. Al posto di raccolta in cima tolsero la barella e ne misero un'altra e proseguimmo. Tommaso Ragno ha letto Addio alle armi di Ernest Hemingway, traduzione di Fernanda Pivano, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini. Regia di Diego Marras. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.